Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Torniamo a occuparci di uno dei grandi scenari di cambiamento che sta prendendo corpo in questi anni, l'arrivo dei veicoli a guida autonoma, le auto che si guidano da sole. Solo nell'ultimo mese e mezzo ci sono stati diversi annunci in questo settore: l'accordo fra Ford e Google, General Motors che si è alleata con Lyft, che è il concorrente di Uber, Nissan e Renault che stanno accelerando anche loro, ma è tutto il mondo dell'automobile a mobilitarsi, a cercare accordi con i giganti del web come Google, appunto, ma anche come Baidu, che è il motore di ricerca più grande della Cina. Quasi tutti puntano a mettere in strada veicoli completamente autonomi entro il 2020, con una serie di passaggi intermedi a breve scadenza. Audi, per esempio, punta a mettere in commercio i primi modelli in grado di condurre l'auto su strade a scorrimento fino a 60 km orari già alla fine di quest'anno. Ebbene, dietro a questa corsa tecnologica ci sono due grandi partite. Una riguarda il modo in cui useremo il tempo del viaggio, quando non dovremo più tenere le mani sul volante e gli occhi sulla strada, e questo spiega l'interesse dei grandi motori di ricerca. E l'altra partita riguarda la natura dell'automobile, la sua probabile trasformazione grazie alle tecnologie dell'informazione, da mezzo privato a mezzo pubblico, da oggetto di proprietà a servizio condiviso. Ecco perché oggi parliamo di auto a guida autonoma con Fabrizio Ruggero, che è a capo del centro studi Europcar dedicato alla ricerca sulla mobilità del futuro. Buonasera Ruggero. Buonasera a lei. Dunque Ruggero, le case automobilistiche, partiamo da qui, hanno in mente una sorta di percorso di assuefazione, diciamo, degli utenti a queste auto a guida autonoma. Ci ricorda i principali passaggi? Dal punto di vista della tecnologia, la tecnologia è disponibile ed è ormai abbastanza semplice inserirla a bordo. Come primo elemento, sicuramente le vetture oggi sono già in grado di seguire la singola carreggiata. Si sta lavorando per incrementare la capacità di algoritmo di questi soggetti vettura per potergli consentire di gestire la complessità legata a spostamenti di carreggiata, inversione e così via. L'elemento più complesso ancora ad oggi è la gestione di ciò che avviene in maniera imprevedibile intorno a loro, il pedone che attraversa d'improvviso. Quindi diciamo l'autostrada è uno scenario molto più semplice della città, questo per capirsi. Ecco, quale sarà nel corso di questo sviluppo il momento più difficile da gestire? Il momento più difficile nella nostra previsione è quello che vedrà in strada vetture a guida autonoma ancora in percentuali, chiamiamole piccole ma significative, il 10% della presenza in strada, a fronte di un 90% di vetture invece tradizionali guidate da persone. Ecco, perché? Perché quello sarà il momento più difficile? Perché il livello di imprevedibilità della vettura guidata da una persona è ovviamente molto più alto, e il livello di conoscenza della vettura guida autonoma di ciò che accade intorno passa attraverso la presenza di tutte vetture che hanno questa tecnologia disponibile a bordo. Cioè, quando sarà completamente diffuso il veicolo a guida autonoma, ogni automobile saprà, per esempio, dove devono andare le automobili che sta per incrociare. Saprà già se deve andare dritto, girare a destra. Quindi gli incidenti verranno evitati a priori, sostanzialmente. Mentre questa fase di passaggio sarà veramente complicata. Poca esperienza sulle auto a guida autonoma e tante incertezze dovute al fatto che le altre sono guidate da esseri umani. Senta, quali sono i mondi nei quali voi prevedete che questi veicoli a guida autonoma penetreranno per primi? Allora, sicuramente saranno tutti gli operatori che già oggi operano, in particolar modo nelle città, per servire la mobilità punto punto. Insomma, gli operatori del car sharing, come voi, per esempio, saranno i primi a comprarsi questi veicoli, sostanzialmente, no? O il ruolo dei sassisti cambierà in maniera importante. Altro elemento, sicuramente, tutta la tematica della logistica. Quindi tutta la tematica della necessità di fare consegna di beni e servizi, ovviamente in particolar modo di beni, all'interno di un territorio definito. Senta, immagino che per voi il tema della sicurezza, che poi è quello su cui puntano i produttori di automobili, no? Dicono che queste auto a guida autonoma in realtà saranno molto più sicure perché non si distraggono, non bevono, non si drogano, eccetera, eccetera. Quanto conta questo aspetto dal vostro punto di vista? Ma noi in questo siamo d'accordo con i costruttori. Il mondo a tendere, costituito in massima parte da vetture a guida autonoma, ridurrà moltissimo il numero degli incidenti, che sono in massima parte legati alla distrazione del driver. Quindi da questo punto di vista anche noi la vediamo come un'opportunità, e considerando che i costi assicurativi sono una componente importante dei nostri costi, consentirà di dare dei servizi a costi più bassi. Va bene, grazie Fabrizio Ruggero, ci risentiamo domani per parlare invece delle complessità, diciamo, dei problemi che ci sono, che ci separano da questo scenario. Arrivederci. A domani.